Intanto guardavo Robert e riflettevo. C'erano in quel caffè, e ne avevo già conosciuti nella mia vita, molti stranieri, intellettuali, artisti squattrinati d'ogni genere, rassegnati al riso che suscitavano con i loro pretenziosi mantelli, le loro cravatte 1830, e ancor più con i loro movimenti maldestri, pronti addirittura a provocarlo per esibire la loro indifferenza. Gente spesso da autentico valore intellettuale e morale, di profonda sensibilità. Essi dispiacevano, soprattutto gli ebrei non assimilati, si capisce, per gli altri il problema non sussiste, a quelli che non riescono a digerire un aspetto stravagante, bislacco. Così Albertine nei confronti di Bloch. Di solito, in un secondo tempo, si riconosceva che, se non deponevano certo a loro favore i capelli troppo lunghi, il naso e gli occhi troppo grandi, i gesti teatrali e inconsulti, era puerile giudicarli in base a questo, che erano persone di spirito e di cuore e che a frequentarli gli si poteva anche volere un gran bene. Per quanto riguarda in particolare gli ebrei, era difficile che i loro genitori non avessero una generosità d'animo, una larghezza di vedute, una sincerità in confronto alle quali la madre di Saint-Leu e il duca di Guermantes facevano una ben magra figura morale con la loro aridità, la loro religiosità superficiale, capace solo di gridare allo scandalo, e la loro apologia domestica di un cristianesimo che sfociava infallibilmente per le vie impreviste dell'unica intelligenza che si avevano in pregio in un colossale matrimonio d'interesse. Ma alla fin fine, in Saint-Leu, comunque si fossero combinati fra loro in una nuova creazione di qualità i difetti dei genitori, regnava la più incantevole apertura della mente e del cuore. E allora, bisogna pur dirlo a imperitura gloria della Francia, quando tali qualità albergano in un francese di razza pura, appartenga all'aristocrazia o al popolo, esse fioriscono, lussureggiano, sarebbe dir troppo, giacché la misura vi persiste e il riserbo, con una grazia che nessun straniero, per quanto stimabile sia, è in grado di offrirci. Certo, le qualità intellettuali e morali le possiedono anche gli altri. E se per scoprirle bisogna passare attraverso ciò che infastidisce o urta o fa sorridere, non sono per questo meno preziose. Ma è comunque una gran bella cosa, e forse esclusivamente francese, che ciò che piace sotto il profilo dell'equità, ciò che vale secondo il cuore e l'intelletto, sia innanzitutto affascinante per gli occhi, colorato con grazia, cesellato con proporzione, e realizzi, anche nella materia e nella forma, la perfezione interiore. Guardavo Saint-Leu e mi dicevo che è una gran bella cosa quando non vi è disgrazia fisica a far vestibolo alle grazie interiori, e le pinne del naso sono delicate e di disegno perfetto come le ali delle farfalle che, intorno a Combré, si posano sui fiori di campo, e che il vero opus francigenum, il cui segreto non è andato perduto col tramonto del XIII secolo e non scomparirebbe con le nostre chiese, non sono tanto gli angeli di pietra di Saint-André des Champs, quanto i piccoli francesi, nobili, borghesi o contadini, il cui volto è scolpito con una delicatezza e una schiettezza non meno legate alla tradizione che nel famoso portale, ma ancora creative. Dopo essersi brevemente assentato per sovrintendere di persona alla chiusura della porta e all'ordinazione del pranzo, propose con molta insistenza carne macellata, evidentemente perché la selvaggina non era all'altezza. Il padrone tornò a dirci che il signor principe di Foix sarebbe stato molto lieto se il signor marchese gli avesse consentito di venire a pranzare a un tavolo vicino al suo. «Ma sono tutti occupati», obiettò Robert, guardando i tavoli che bloccavano il mio. «Se per questo non è un problema, se al signor Marchese facesse piacere, non avrei difficoltà a pregare queste persone di cambiare posto. Sono cose che si possono ben fare per il signor Marchese». «Ma tocca a te decidere», mi disse Saint Liu. «Fua è un bravo ragazzo, non so se ti annoierà, è meno stupido di tanti altri». Risposi a Robert che mi sarebbe certamente piaciuto, ma che, per una volta che pranzavamo insieme e ne provavo tanta gioia, sarei stato non meno felice di restare solo con lui. «Ha un gran bel mantello, non è vero, il signor principe?» osservò il padrone mentre noi decidevamo. «Sì, lo conosco», annuì Saint Liu. Avrei voluto raccontare a Robert che Charlieu aveva finto, con sua cognata, di non conoscermi e chiedergli quale potesse esserne la ragione, ma ne fu impedito dall'arrivo del signor di Foix. Lo vedemmo che, venuto a constatare se la sua richiesta fosse stata accolta, indugiava a due passi da noi. Robert ci presentò, ma non nascose all'amico che, dovendo parlare con me, preferiva essere lasciato tranquillo. Il principe si allontanò, aggiungendo al saluto che mi rivolse un sorriso col quale indicava Saint Liu e sembrava addossargli la colpa della brevità di una presentazione che egli avrebbe volentieri prolungata. Ma proprio in quel momento, Robert, come assalito da un'idea repentina, andò a raggiungere l'amico dopo avermi sussurrato «Siediti e comincia a mangiare, torno subito». E sparì nella saletta. Mi amareggiò sentire quei giovanotti eleganti che non conoscevo scambiarsi le confidenze più ridicole e velenose sul conto del giovane granduca ereditario di Luxemburg, ex conte di Nassau, che avevo incontrato a Balbec e mi aveva dato prove così delicate di simpatia durante la malattia della nonna. Uno pretendeva che gli avesse detto alla duchessa di Guermantes: «Esigo che tutti si alzino quando passa mia moglie», e che la duchessa gli avesse risposto, il che avrebbe denotato non solo mancanza di spirito, ma anche di esattezza, visto che la nonna della giovane principessa era sempre stata la donna più onesta del mondo. Gli avesse risposto: «Già, per tua moglie bisogna alzarsi. Che differenza rispetto a sua nonna! Per lei gli uomini si sdraiavano». Poi raccontarono che, andato quell'estate a trovare sua zia, la principessa di Luxemburg a Balbec, e sceso al Grand Hotel, se l'era presa col direttore, il mio amico, lamentando che non avesse fatto issare sulla diga la bandiera del Lussemburgo. Ora, tale bandiera, essendo meno conosciuta e meno usata di quelle d'Inghilterra o d'Italia, c'erano voluti parecchi giorni per procurarsela, con vivo disappunto del giovane granduca. Non credetti una sola parola di questa storia, ma mi ripromisi, quando fossi tornato a Balbec, di interrogare il direttore dell'albergo in modo da accertarmi della sua assoluta falsità. Mentre aspettavo Saint Liu, chiesi al padrone del ristorante di farmi portare del pane. «Subito, signor barone». «Non sono barone», precisai assumendo per burla un'espressione desolata. «Oh, vi prego di scusarmi, signor conte». Non feci in tempo ad elevare una seconda protesta, dopo la quale sarei sicuramente diventato signor marchese. Con la preannunciata rapidità, Saint Liu si riaffacciò all'ingresso con in mano il grande mantello di vigogna del principe, al quale capì che l'aveva chiesto perché mi tenesse caldo. Mi fece segno, da lontano, di non disturbarmi. S'avvicinò. Sarebbe stato necessario spostare ancora il mio tavolo o che io cambiassi posto perché potesse sedersi. Appena ha messo piede nella sala grande, saltò con leggerezza sui divani di velluto rosso che giravano lungo tutta la parete e sui quali, oltre a me, erano seduti soltanto tre o quattro giovanotti del jockey, suoi conoscenti, che non erano riusciti a trovar posto nella saletta. Fra i tavoli, a una certa altezza, erano tesi dei fili elettrici. Con assoluta disinvoltura, Saint Liu li scavalcò agilmente, come un cavallo da corsa a un ostacolo. Confuso che essa venisse esercitata espressamente per me, all'unico scopo di evitarmi un semplicissimo movimento, ero in pari tempo colpito dalla sicurezza con cui il mio amico eseguiva quell'acrobazia. E non ero il solo. Infatti, il padrone e i suoi aiuti, che certo l'avrebbero ben poco apprezzata da parte di un cliente meno aristocratico e meno munifico, ne erano affascinati, come degli intenditori nel recinto del peso. Un cameriere rimase immobile, come paralizzato, con un vassoio che alcuni avventori attendevano lì accanto. E quando Saint Liu, dovendo passare dietro i suoi amici, balzò sul bordo dello schienale e vi proseguì reggendosi in equilibrio, qualche applauso discreto si levò dal fondo della sala. Arrivato, infine, alla mia altezza, frenò di colpo il suo slancio con la precisione di un comandante davanti alla tribuna di un sovrano e, inchinandosi, mi tese con un gesto pieno di cortesia e di sottomissione il mantello di vigogna che subito dopo, sedutosi accanto a me, senza che io dovessi fare un solo gesto, mi sistemò come uno scialle caldo e leggero sulle spalle. «Ah, prima che me ne dimentichi», mi informò, «mio zio Charlieu ha qualcosa da dirti. Io ho promesso che t'avrei fatto andare da lui domani sera. Stavo giusto per parlartene, ma domani sera sono a pranzo da tua zia Germante. Sì, è in programma una scorpacciata domani da Orian. Io non sono invitato, ma mio zio Palamed vorrebbe che tu non ci andassi. Non puoi liberarti? In ogni caso, dopo va da lui. Credo che ci tenga a vederti. Ci puoi andare benissimo, ecco, verso le 11. Alle 11, non dimenticartene, ci penso io ad avvertirlo. È molto suscettibile. Se non ci vai se ne avrà male. E Daurian finisce sempre abbastanza presto. Anch'io, d'altronde, avrei dovuto vedere Orian per quel mio posto in Marocco che vorrei cambiare. È così gentile, Orian, per questo genere di cose. E ha un potere assoluto sul generale de Saint-Joseph. È lui che decide. Ma tu non dirle niente. Ne ho accennato alla principessa di Parma. La faccenda si sistemerà da sola. Ah, molto interessante il Marocco. Avrei un sacco di cose da raccontarti. Gente molto fine laggiù. Si sente la parità di intelligenza. A proposito, tu non credi che i tedeschi possano arrivare alla guerra? No, sono seccati e in fondo hanno ragione, ma l'imperatore è un tipo pacifico. Ci fanno sempre credere che vogliono la guerra per costringerci a cedere. La tecnica del poker. Il principe di Monaco, agente di Guglielmo II, ci viene a dire in confidenza che, se non cediamo, la Germania ci salta addosso. E noi cediamo. Ma se non cedessimo, non ci sarebbe proprio nessuna guerra. Basta che tu pensi a cosa sarebbe di cosmico una guerra al giorno d'oggi. Sarebbe più catastrofica del Deluge e del Götterdämmerung, solo che durerebbe meno. Robert mi parlò di amicizia, di predilezione, di rimpianto, sebbene, come tutti i viaggiatori della sua specie, fosse in procinto di ripartire il giorno dopo per la campagna, dove avrebbe trascorso alcuni mesi e da dove sarebbe rientrato a Parigi per non più di 48 ore prima di tornare in Marocco o altrove. Ma le parole che egli gettò quella sera, nel caldo del mio cuore, vi accendevano dolci chimere. I nostri rari colloqui intimi, e quello soprattutto, hanno fatto epoca, poi, nella mia memoria. Per lui, come per me, fu la sera dell'amicizia. Tuttavia, quella che provavo in quel momento, e per questa ragione non senza rimorsi, non era quasi per nulla, temevo, l'amicizia che gli sarebbe piaciuto ispirarmi, tutto pieno ancora del piacere destatosi in me nel vederlo avanzare al piccolo galoppo e giungere graziosamente al traguardo, sentivo che tale piacere era connesso col fatto che ciascuno di quei movimenti lungo la parete, sul divano, aveva il proprio significato, la propria causa, forse, nella natura individuale di Saint-Lieu, ma più ancora in quella che per nascita e per educazione egli aveva ereditato dalla sua razza.